come fanno quelli che ho letto sui miei libri blu. Volevo avere per me solo il fascino antico di un salto nel buio. Volevo spargere il sale sul ricordo che avevo di me. Volevo essere araldo ineffabile di libertà. Volevo dire a quel professore bigotto che mi ruba il sonno che lui non è come va credendo il forziere della verità. La luce del sole, il verde dei prati, l'amore, di Bacco, tabacco e Venere. Come volevo, si è compiuto il mio destino ed ora sono solo. Cammino e rido e non sento il peso del sacco sulle spalle bagnate, mentre i fari dell'auto a quota e lame mi tagliano a pezzi. Ed io mi perdo, mi fondo il giudizio di vita in natura. Riprenderò le redini dell'esistenza e la condurrò dove mi pare, dove voglio ora e non volevo un momento fa. Posso ancora tornare la gioia di mamma e papà. Bello, buono, studioso, domestico e religioso. Mi accendo un sigaro, ben pensanti andate a dormire insieme agli elefanti. Mi accendo un sigaro e se starete stretti pensate a fare un po' di moto. E io